Eris, dici tu due parole. Quando, eccolo, è comparso nel discorso, frattempo, come per incanto, è comparso il prosecco. Discorso, no? Perché per esempio adesso dal 2013 non è più permesso trattare con zolfo, perché non è più ammesso come... In vigna, dici? Sì, in vigna. E qua ritorno al mio discorso che ho detto prima, è tutta questione delle multinazionali chimiche, per capirsi. Dopo, perché non va bene lo zolfo, ma magari vanno bene delle cose che sono peggio dello zolfo. Sì. Dopo, per esempio, con le mie vigne, originariamente erano un miscuglio. Cioè, come sta la signora? Dicendo la signora qua, perché fa parte anche quello del disciplinare di produzione, c'era dentro verdiso, che quello andava sui posti più ripidi perché patisce meno la siccità, bianchetta, che quella matura prima, il verdiso poi alto di acidità tartarica, la bianchetta che è un vitigno che diventa maturo prima e molto ricco di zuccheri. La Perera, che anche quella è ricca di tartarico, di acidità fissa, per capirsi, che serve per dare più corpo e accentuare i profumi sulla fermentazione. Ma anche quella c'è stato un problema, perché con gli OGM, con gli innesti, perché una volta quelle innestate venivano osservate tralcio per tralcio che fossero sane, adesso le raccolgono a caso, infatti è venuto fuori il problema della flavescenza dorata, cioè vigneti spiantati, per capirsi, è causata dallo Scofoideo titanus, che è una cicalina. E qua torna il discorso, no? Che come dicevo, se ti mancano i predatori è logico che i parassiti, dopo l'ecosistema ovviamente non è più equilibrato, conseguentemente io senti, ma io ti volevo chiedere una cosa, però io per esempio sul ragno rosso, ragnetto rosso saranno 20 anni che non tratto più. Ma questo è perché bisogna sapere che prodotti si utilizzano. Se tu tratti con certi prodotti, faccio un nome, il dimetovato, con quello uccidi tutto. E allora ti viene fuori. Certo. Ascolta, ma veniamo dalla vigna, passiamo alla cantina un attimo, facciamo un ultimo giro e poi assaggiamo il vino. Il prosecco, no? Cioè il prosecco uno c'ha in mente, almeno io c'ho in mente, diciamo che io X posso avere in mente questi grandi autoclavi in cui uno butta dentro, no? E poi vai e pompa e fai sto prosecco. Il tuo come è fatto? No, ma viene fatto su quello, perché sono cisterne che hai, puoi regolarle termicamente senza utilizzare la chimica. Spiegaci come fai il tuo. No, perché dentro... Per uno che non sa, spiega bene da zero in poi. Viene fatta, in pratica viene pigiato con la Booker, che è la pressa pneumatica. Booker è una pressa pneumatica, come discorso. Boh, quindi vai. Vinificare, chiarito subito, cioè non ha fermentazione in bianco, per capirci, è prima fermentazione in bianco. Dopo, quando è arrivata una certa... Una fermentazione in bianco vuol dire senza le bucce. Senza le bucce. No, per capirci, perché sennò qua parliamo magari un linguaggio no. Non è che tutti capiscono. No, senza le bucce, perché metti caso, se sono le uve che sono trattate, quello che ti resta di più, come può essere il rame, ti resta sulla buccia. Benissimo. Quindi dai la prima fermentazione per arrivare a una gradazione che il vino sia stabile, che siamo sui 10 gradi, e dopo viene raffreddato. Filtrazione che viene fatta è microfiltrazione, che è un macchinario un po' particolare, dove ti passa su delle cannucce di ceramica, in ultima ci sono dei filtri dove non passano i lieviti, per capirsi. Quello ti dà la possibilità non di utilizzare, come può essere la bentonite o altre sostanze per chiarificare. Dopodiché? Dopodiché, appunto, abbassando la temperatura si va attorno poco sopra i 0 gradi, quando si ha voglia di farlo ripartire perché li fermenti, si alza la temperatura e i lieviti funzionano. È quello che veniva, per esempio, una volta, che la fermentazione avveniva in bottiglia, però veniva sotto Pasqua, come la faccio ancora. Ah, ho finito le bottiglie e non ho potuto portarle ad assaggiare. Tu metti i lieviti aggiuntivi? Sono selezionati quelli sull'autoclave. Cioè, che cosa vuol dire selezionati per te? Sono OGM free. No, diciamolo perché è importante. No, non sono quelli, non so se avete sentito qualche prosecco che sa da banana. Avete sentito qualche prosecco che sa di banana? Chiede. Sì. Ecco. No, ci sono in giro perché il tipo di lievito che do, se tu hai quello selezionato, che anche questo viene dalla Francia, perché ti costa anche meno come discorso, se no, se vuoi darli, il prosecco, essendo un vino che non è corposissimo e quindi è molto delicato, sensibile, puoi alterarne i gusti, i profumi. Per capirci. Quindi anche la questione del lievito è una questione molto importante. Fondamentalissima. È per quello, per esempio, che quello che ha la fermentazione in bottiglia, essendo lo stesso vino, è diverso. Perché là si mescolano. Perché ogni tipo... tu fai due vini, di bene, perché sennò qua non si capisce più niente. Lui fa due prosecchi, qua ne abbiamo ovviamente solo uno. Sì. Uno fa la fermentazione in bottiglia, giusto? Sì. Che non è questo, è no. Quell'altro. Mm. E questo invece fa la fermentazione in autoclave. In autoclave. Ok. E dopo, per esempio, come conservante, per quello che l'autoclave servono anche perché la sono tenuta stagna e al posto di mettere dentro sostanze chimiche si adopera azoto, che l'azoto è gas inerte. Che quel, sì, non è che te lo trovi dentro sul vino quello. Del gas inerte, che quello ti sanifica, anche elimina il discorso di batteri. Ecco, quindi diciamo senza l'aggiunta però di altre sostanze.